Registrazione a cura di Scatola Nera. Il contenitore multimediale. Facciamo delle domande che magari è qui, magari hai già risposto mille volte. Come ne parlavi prima? Come è nato? Nel senso... Vabbè, allora, il progetto Black Swift è nato sostanzialmente da me e da un altro mio socio, che all'epoca facevamo parte del collettivo, di vari collettivi, tra cui quello di Reload, quello di Chainworks, eccetera, eccetera. Quindi eravamo attivi politicamente sul territorio milanese. Ed è nato anche un po' come all'epoca come possibile via di fuga, nel senso di progetto che si dirama dall'attuale progetto politico che stavi facendo, per potenziarlo, per ampliarlo, per trovare nuove vie dove fare la politica nel modo in cui la stai facendo, per cui, come dire, influenza culturale, sovversione dei codici culturali e delle trasmissione di piccole suggestioni su come si potrebbe vivere il mondo diversamente da come si vive. In realtà, visto col senno di poi, in una fase in cui l'attivismo politico stava vivendo, e adesso vive ancora di più, una notevole crisi, esistenziale anche da alcuni punti di vista, è diventato un po' un surrogato, di quello che stavi facendo politicamente, perché tutto il resto ti si è un po' sgretolato nelle mani e quello ti è rimasto tra le cose che potevi fare, no? Perché è un progetto che dipendeva sostanzialmente da te. Il libro è nato un po' dalla voglia di raccontare un altro modo di vivere la città e un'altra possibilità di far vivere la città attraverso quello che si fa. E secondo me, da quel punto di vista, funziona abbastanza come libro. E purtroppo la città è andata avanti a essere vissuta come veniva vissuta quando il libro è stato scritto, per cui le difficoltà non sono certo diminuite. La ferocia, che la città esprime quotidianamente, non è di certo diminuita. Ovviamente io parlo di Milano perché sia io che l'altro socio, adesso lui non vive più a Milano, però vivevamo a Milano, facevamo le nostre cose a Milano, la nostra attività si era centrata sulla città di Milano, ma penso che sia un discorso abbastanza valido, anche per una città in senso più archetipale, no? Cioè, per la città in senso lato, che sia Milano che sia un'altra città, il concetto non penso sia molto differente. Ovviamente poi ogni città ha le sue caratteristiche, no? Anche il libro è anche imperniato su questo, che le città, anche in maniera un po' animista, hanno un loro spirito, no? Che si incarna nelle persone che ci sono, in come le persone si relazionano, in quello che accade, nelle sensazioni che ti trasmettono, che è un po', uno spirito che è una via di mezzo tra come vivi tu la città e come la città vive te. E, però, insomma, al di là di queste differenze, comunque, quando parliamo dei problemi che ci sono relativamente al vivere la città, lo si può anche prendere in senso più generale, almeno la voglia è quello di riuscire a generalizzare un po' la discussione, no? Questo è un po' il modo in cui è nato il libro. Poi praticamente è nato, è stato scritto da uno di noi due e pubblicato a puntate su un sito che abbiamo messo su, che era blacksweep.org. Poi, visto che è riuscito ad arrivare alla fine, inaspettatamente è riuscito veramente a concludersi come romanzo, e l'abbiamo raccolto, abbiamo fatto girare un po', e all'epoca Sandrone Lazieri ci propose di pubblicarlo per Colorando Noir. Noi ponemmo come unica condizione quella di poter distribuire liberamente il materiale, che rimanesse quindi sotto licenza Creative Commons o una dicitura analoga, e siccome l'editore non fece problemi in questa direzione, noi a quel punto non ci siamo posti altri problemi, perché alla fine, non è molto differente, no? La questione, alla fine stai pubblicando, stai vendendo una cosa, per cui l'importante è che poi la cosa che stai vendendo di fatto rimanga libera per la fruizione, al di là della dimensione della sua commercializzazione, no? e anche perché per noi non era tutto, cioè l'avremmo pubblicato probabilmente anche se ci avessero detto che non ci davano una lira per pubblicarlo. Poi abbiamo deciso, considerato chi era il nostro interlocutore, sarebbe stato sbagliato regalargli del lavoro, e quindi comunque ce lo siamo fatti pagare. E poi appunto, siccome non c'è la opposizione alla distribuzione, non abbiamo visto altri problemi e ci siamo messi a lavorare nel giro di un annetto tra redazione, correzione di bozze, riscrittura di un buon pezzo, in particolare del finale, che non convinceva molto i nostri editor. Siamo arrivati a avere il prodotto finale, che secondo me si poteva ancora migliorare. Cioè, col senno di poi ci sono alcune, diciamo così, scelte che abbiamo fatto, narrative su cui ci siamo anche impuntati, tra l'altro, che l'editor ci ha detto: no, quella parte non si capisce un cazzo, perché la volete lasciare? Io ho detto: perché è importante, no, perché... Poi riletto dopo un paio d'anni, dici: ma in effetti non si capisce un cazzo quella parte lì, chissà perché l'abbiamo lasciata. Però questo penso sia la storia un po' di tutti i libri che vengono scritti, insomma. Non è, penso che anche gente che scrive molto meglio di noi si trovi davanti alla stessa situazione, che legge il libro dopo 3, 4, 5 anni e si rende conto che alcune cose da farlo in maniera completamente diversa. Però ci sta, ad un certo punto uno deve dichiarare finito una storia e pubblicarla, lasciarla andare per la sua strada, insomma. Poi appunto abbiamo fatto relativamente poche presentazioni, forse questo è stato il limite più grosso del progetto Black Swift, e anche il motivo per cui non è riuscito ad avere una sua continuità, che adesso ci fa dire magari che c'è un altro libro in pubblicazione. Perché subito dopo che è stato pubblicato il libro, uno di noi due è andato in Cina, e l'altro si è trovato immerso in 4 lavori contemporaneamente, e quindi proprio nel momento in cui l'ha pubblicato, in cui sarebbe stato invece magari bisogno di massimo dedizione a portarlo in giro, raccontarlo, spiegarlo, fare, disfare, e quindi poi a quel punto trovare anche magari delle strade su cui continuare, siamo un po' mancati. Però forse, come dicevamo prima a tavola, questo fa parte un po' di un meccanismo anche peculiare che stanno assumendo i progetti che hanno almeno a che fare con la politica e l'attivismo ultimamente, no? Cioè, il contesto in cui ti muovi è estremamente povero di partecipazione, di interesse, di risposte, e quindi molti progetti partono e poi non riescono, diciamo così, a superare un certo livello di coinvolgimento, di partecipazione, di interesse, di risposte, tale per cui quei progetti riescono poi a prosperare nel tempo. Mi sembra che sia una cosa che è successa a noi con i nostri libri, che diciamo è partito molto bene e poi adesso è in una fase di stallo, ma succede a tantissime altre cose. Cioè, ci troviamo di fronte a una situazione in cui le cose che ci siamo abituati a fare in termini di attivismo funzionano poco, ne proviamo di nuove ma non riusciamo mai a sfondare quella soglia che dice: ok, noi le abbiamo provate a fare ma adesso continuano con noi e al di là di noi, non so come dire. Poi, al di là del fatto che abbiamo un valore planetario, anche solo di quartiere, insomma, quello non è importante, no? Non è la scala il problema, è proprio la vivibilità della cosa. E noi abbiamo, secondo me, avuto proprio una parabola abbastanza esemplificativa di questa cosa. Al momento siamo un po' in stallo, ci sono in realtà in ballo delle cose che abbiamo pronte, mezze pronte, progettate ma non realizzate, e ogni tanto c'è qualche fuoco di paglia, diciamo, che ci vede protagonisti, diciamo: ok, adesso partiamo, sistemiamo questo così, pum, e poi partiamo. Però non riusciamo mai a trovare lo stimolo giusto per ripartire a sprombattuto, non so come dire, perché a questo punto, dopo 3 anni che è uscito il libro e ha avuto un suo ciclo, in pratica pubblicarne un altro, trovare un'altra cosa da fare, che può essere anche non pubblicare il libro ma magari pubblicare una serie di storie che facciamo circolare in rete, o scrivere una serie di cose che vogliono spiegare dei fenomeni che stiamo vedendo intorno a noi, eccetera eccetera, può essere anche un progetto completamente autonomo che in comune con il libro ha quasi esclusivamente il nome, diciamo così, dell'autore, no? Perché ormai in 3 anni il ciclo di un libro è già ampiamente concluso, no? E se non ha avuto continuità difficilmente la può assumere postuma, no? Però io penso che sia stata un'esperienza per noi molto interessante, quella di scrivere e pubblicare un libro, presentarlo in giro, confrontarsi con la difficoltà di